Il quadrifoglio. Consumo critico, agricoltura, ambiente, energie rinnovabili. Quattro elementi per la nostra vita. In collaborazione con ARCAV, Associazione Giornalisti Agroambientali di Veneto e Trentino Alto Adige. A cura di Emanuele Cenghiaro. Come anticipato la scorsa settimana, ritorniamo oggi a parlare di vino, ma non direttamente della bevanda o del cibo, come molti preferiscono definire il vino, bensì di quello che essa riesce a fare per la promozione del territorio in cui viene prodotto. Parliamo oggi, infatti, di strade del vino, che, come forse non tutti sanno, non sono un itinerario da cantina a cantina, ma delle associazioni di realtà, dalle aziende agricole, ai ristoratori, agli albergatori, ma anche comuni e altre istituzioni, che hanno lo scopo di promuovere il territorio a partire proprio dal prodotto tipico che ne è il fiore all'occhiello. In genere è il vino, ma nel Veneto esiste ad esempio una strada del riso, come una strada del radicchio, degli asparagi e una strada dei formaggi delle Dolomiti Bellunesi. Per saperne di più ne parliamo oggi con Francesca Salvan, rappresentante dell'omonima cantina Salvan, che ha sede a Due Carrare e presidente della strada del vino dei Colli Euganei. Benvenuta Francesca. Grazie. Ecco, la prima domanda è subito: che cosa sono e quale scopo hanno queste strade di prodotti tipici? Le strade di prodotti tipici servono a fare incontrare i prodotti nel luogo in cui nascono. È una maniera per capire di più quello che mangiamo, quello che beviamo e anche chi c'è dietro i prodotti che noi amiamo, che consumiamo quotidianamente oppure nelle occasioni. Comunque è una maniera per approfondire meglio il mondo della gastronomia, che sicuramente è una delle eccellenze del nostro paese Italia. E le strade del vino hanno uno scopo, quindi direi enoturistico, e poi se parliamo anche di formaggi, diciamo del turismo enogastronomico in genere, che è un settore che è sempre più in crescita perché c'è un grande interesse per avvicinarsi appunto al mondo della produzione agricola e agroalimentare. Ecco, sappiamo che sì, la parte culinaria ormai è inscindibile dall'attrazione turistica di un luogo, ma perché il vino in particolar modo è così attrattivo? Il vino credo sia una sintesi dell'enogastronomia, ecco, perché ogni luogo ha un certo vino perché è anche frutto di una storia. Basta pensare appunto al Tai Rosso con il Baccalà, insomma, che per secoli sono andati insieme, l'Ambrusco in Emilia Romagna, che è nato abbinato alla loro cucina che è molto grassa, quindi l'Ambrusco che pulisce la bocca. Il vino è sempre, si è sviluppato in un certo modo perché c'era una certa gastronomia e direi anche perché c'era una certa cultura, una certa storia dei popoli. Quindi credo che degustando un bicchiere di vino e ascoltandone la storia raccontata in particolare anche dai produttori, si possa veramente degustare l'essenza di un territorio. Ecco, questo credo sia l'aspetto più affascinante. Quindi non si parla di un prodotto chimico-fisico, c'è anche questa parte, ma di un prodotto culturale. Ecco, quali sono, quante sono le strade nel vino? Ne abbiamo citate alcune, ma quali sono le strade appunto del vino, dei prodotti tipici del Veneto? E poi se anche c'è un lavoro in rete, se state o se siete ognuno per conto proprio o se riuscite anche a fare un lavoro assieme? Sì, nel Veneto sono circa una ventina e ci sono stati dei lavori insieme in passato. Adesso c'è stato un momento in cui adesso ci siamo un po' allontanati, adesso ci si sta rincontrando. Credo questo sia molto importante perché poi si lavora tutti per lo scopo comune e alla fine insomma il territorio del Veneto non è così grande, quindi ha senso lavorare insieme, muoversi. Sì, la domanda era proprio questa, parliamo di prodotti tipici, prodotti tipici rimandano ad un territorio, però forse bisogna anche ragionare un po' assieme, per esempio per promuovere il Veneto come regione, quindi tutti questi prodotti tipici non promuovono il proprio campanile ma promuovono l'intera regione e poi allargando anche l'Italia stessa. Certo, no, perché noi siamo abituati credo a fare la differenza da qui a 10 km, invece se pensiamo alla valle, ai vini della Loira, è lunga qualche centinaio di chilometri, quindi delle volte noi facciamo molte differenze, che è un po' anche il valore dell'Italia, avere tante piccole peculiarità, però d'altro canto, soprattutto per la promozione turistica, è molto importante muoversi insieme e promuovere i territori in maniera complessiva, perché basta pensare, adesso si comincia a lavorare molto con i turisti anche extraeuropei, più di sapere dov'è l'Italia, dov'è Venezia, dov'è Roma, difficile, quindi inutile poi muoversi come Monselice o come Montegrotta, insomma bisogna muoversi insieme, ognuno con le proprie peculiarità, però dare un'immagine coordinata anche per massimizzare l'efficienza di quello che si fa, perché insomma le risorse sono poche per la promozione, quindi è importante fare il meglio con la minor spesa. Certo, lei ha citato la Valle della Loira, quindi la Francia, i francesi che sono un po' più avanti forse anche sia nel vino ma forse anche nella promozione del loro prodotto, insegnano anche alle strade del vino? Ma io nella promozione del prodotto vino sicuramente i francesi sono partiti prima e riescono a vendersi meglio, perché adesso l'Italia, ci giochiamo sempre tra Italia e Francia la quantità di i primi produttori al mondo come quantità, ma la Francia ci ha sempre battuto poi sul prezzo medio per bottiglia, per dire. E per quanto riguarda la promozione turistica invece io ho visitato qualche luogo in Francia, in qualche luogo sono molto bravi, devo dire, in qualche luogo forse siamo bravi anche noi, quindi non c'è da, sicuramente c'è sempre da imparare, però insomma credo che siamo sulla strada giusta, ecco, l'importante è crederci, l'importante è fare squadra, perché questo è fondamentale, e l'importante è anche che le istituzioni accompagnino, ecco, e il pubblico, perché purtroppo uno dei grandi problemi è poi anche ci sono dei problemi che non dipendono poi dai singoli imprenditori, come possono essere le infrastrutture, i trasporti, una serie di servizi che sono fondamentali quando si parla di turismo di territorio, ecco. Certo, ecco, ci fermiamo per qualche minuto, a tra poco. Il quadrifoglio. Consumo critico, agricoltura, ambiente, energie rinnovabili. Quattro elementi per la nostra vita. Mio padre che mi spinge a mangiare, e guai se non finisco. Che vuol farmi guidare, mi frena con il fischio, il bambino più grande mi mena davanti a tutti gli altri, lui che passa per caso mi salva e mi condanna per sempre. Mio padre di spalle sul piatto si mangia la vita, e poi sulla pista da ballo fa un balzer dentro il suo nuovo vestito. Per sempre, solo per sempre, cosa sarà mai portarvi dentro solo tutto il tempo? Per sempre, solo per sempre, c'è un istante che rimane lì piantato eternamente. E lei che non si lascia afferrare, si piega indietro e ride. E lei che dice quanto mi ama, e io che mi fido. E lei che mi toccava per prima, la sua mano bambina, vuole che le giuri qualcosa, le si gonfia una vena. Lei che era troppo più forte, sicura di tutto, e prima di andarsene mi dà il profilo con un movimento perfetto. Per sempre, solo per sempre, cosa sarà mai portarmi dentro solo tutto il tempo? Per sempre, solo per sempre, c'è un istante che rimane lì piantato eternamente. Per sempre, solo per sempre. Che prepara la cena cantando Sanremo, carezza la testa a mio padre e gli dice: vedrai che ce la faremo per sempre, solo per sempre. Cosa sarà mai portarmi dentro solo tutto il tempo? Per sempre, solo per sempre. C'è un istante che rimane lì piantato eternamente. Per sempre, solo per sempre. Torniamo in linea con la trasmissione del Quadrifoglio. Oggi stiamo parlando di strade del vino e lo stiamo facendo con Francesca Salvanna, presidente della Strada del Vino dei Colli Euganei e rappresentante della cantina omonima Salvanna di Due Carrare. Parlavamo di strade del vino, appunto, che cosa state programmando sia nella vostra sia se vi sono degli eventi un po' generali per il Veneto come strade? Sì, noi adesso, allora, in specifico nei Colli Euganei stiamo partendo con le attività della primavera, che è la stagione, primavera e autunno sono le stagioni più interessanti credo per visitare la nostra ma anche le altre strade del vino, sia per la bellezza dei paesaggi sia per i prodotti che si possono trovare, ecco. E adesso noi nei Colli Euganei abbiamo un paio di eventi molto interessanti, e al 4 maggio avremo la 10ª edizione della Caccia al Tesoro, che è un evento benefico organizzato in collaborazione con i Lions Padova alla scoperta del territorio. Ecco, il tesoro è proprio il percorso si snoda attraverso le cantine, attraverso i ristoranti, e ci sono delle domande sulla gastronomia, la natura, la storia, l'architettura, eccetera, eccetera. È una cosa, secondo me, una maniera simpatica per fare turismo, per conoscere i vini, i prodotti. Ecco, è una cosa che veramente consiglio, e la finalità benefica sicuramente è una bella cosa. Poi verso fine maggio ci sarà la settimana del vino, che si conclude con la Golosa Bike, è un itinerario in bicicletta sempre alla scoperta delle cantine e dei prodotti. E un'altra bella iniziativa sono le passeggiate enogastronomiche con una guida naturalistica che accompagna per i colli, facendo scoprire prima la natura e la storia dei nostri Colli Euganei, poi si finisce in cantina a bere e degustare. Ecco, questo è un esempio di cosa una strada del vino o di un prodotto tipico può fare per promuovere il territorio, quindi in questo caso non solo vino ma anche altri prodotti. So che nei Colli Euganei per esempio si parla di olio, che forse è poco noto, miele, ma anche frutta di vario genere. E poi, rimanendo al mondo del vino, anche i distillati, poi grappe e altri distillati. Noi abbiamo anche tra i soci anche una distilleria, abbiamo diversi prodotti. Ecco, qualcuno delle volte mi dice: ma perché si chiama solo Strada del Vino? Credo sia, poi chiunque la incontra capisce che non c'è solo il vino, diciamo che sarebbe difficile chiamarla Strada del Vino, dell'olio, dei prodotti, dei distillati, eccetera. Quindi al tempo, quando sono state create una decina di anni fa queste strade del vino a livello nazionale, è stato dato questo nome, cioè si è scelto il prodotto principe della zona, ecco. Però sicuramente ci sono moltissimi altri prodotti validi, interessanti. Lei citava l'olio, che sta emergendo moltissimo sui colli. Noi abbiamo anche tra i soci diversi frantoi che invito a visitare, si muovono molto bene anche facendo per esempio dei corsi di degustazione, degli approfondimenti, quindi occasioni sono veramente molte. Ecco, ultima domanda, per il futuro cosa avete in serbo per la promozione del territorio? Adesso stiamo muovendo per creare anche delle proposte commerciali, pian piano saranno attivi, quindi i pacchetti turistici. Ecco, nella nostra zona abbiamo anche la fortuna di avere il bacino termale di Abano Montegrotto, che è un bacino, il più importante bacino termale europeo, che sicuramente ha una capacità ricettiva molto alta e anche attrattiva, insomma, quindi interessante per un turista poter visitare, fare turismo enogastronomico e poi finire a rilassarsi alle terme. Credo questo sia un valore aggiunto molto, molto ampio. Ecco, questo sicuramente, parlando anche del Veneto e delle altre strade, vedo che si stanno muovendo un po' tutte in questo senso, quindi dall'aspetto istituzionale e promozionale generale si sta cercando di dare poi delle offerte concrete, che adesso nell'era di internet, chi naviga in internet poi tende a far tutto, quindi se riesce poi a concludere il suo viaggio di scoperta, di informazione, acquistando un prodotto abbiamo fatto tutto, insomma. Certamente, ecco il sito internet, voi ne avete uno che è www.stradadelvinocolleugane.it, immagino che anche per le altre strade del vino ci sia lo stesso, si possono trovare sul sito della Regione Veneto, nella sezione turismo, anche l'elenco di tutte quante le strade del vino del Veneto. Esatto. Grazie allora per il suo intervento. Grazie a lei. Quindi un invito a visitare, appunto, a seguire i percorsi suggeriti da queste varie strade dei prodotti tipici del Veneto. Vi aspettiamo. Grazie. Buona giornata. Passiamo quindi alle consuete notizie. Ultima chiamata del piano di sviluppo rurale 2007-2013 per le aziende agricole venete. La Giunta regionale ha adottato un bando che metterà a disposizione risorse per 60 milioni di euro complessivi, con l'obiettivo in particolare di insediare giovani under 40 come titolari di nuove aziende agricole e supportare l'ammodernamento di strutture aziendali esistenti. Il primo bando scade il 30 di maggio, il secondo il 30 giugno. Per ciascuno dei due campi di intervento previsti, ha sottolineato l'assessore Franco Manzato, 7 milioni e mezzo saranno indirizzati alle aziende della montagna. Attraverso la cosiddetta progettazione integrata, poi, per il pacchetto giovani è prevista l'attivazione contemporanea di più misure del PSR, coordinate e rese coerenti al progetto nel piano aziendale. Tra queste vi sono l'ammodernamento dell'azienda agricola, interventi di formazione individuale in azienda e servizi di consulenza agricola. Rimaniamo in tema regione. Il 3 aprile, in occasione del seminario organizzato da Regione Veneto e sede territoriale per il Veneto dell'Istat, verrà presentato il volume dal titolo Lo spazio economico dell'agricoltura veneta nel 2010, tipologia e sinergie territoriali, che offre un'analisi del settore agricolo sulla base dei risultati del sesto censimento generale dell'agricoltura. L'incontro si tiene alle ore 10 nel Palazzo della Regione di Fondamenta Santa Lucia a Cannareggio 23, Venezia. Infine, poter utilizzare i terreni demaniali in disuso per creare reddito e servizi sociali ai cittadini. È questa la proposta centrale del programma presentato dall'Associazione dei Giovani Imprenditori Agricoli della CIA di Padova alla vigilia dell'assemblea che li vedrà protagonisti il 3 di aprile. Oltre alle agevolazioni per l'insediamento di nuove imprese agricole e un accesso facilitato al credito, i giovani agricoltori chiedono di costituire la cosiddetta Banca della Terra, ovvero che dia l'opportunità di utilizzare i terreni demaniali liberi e incolti per realizzare aree a servizio dei cittadini, come orti sociali e parchi, facendo un uso sociale anche dei terreni oggetto di speculazioni edilizie non andate a buon fine. L'iniziativa viene pienamente sostenuta dal presidente di CIA Padova, Roberto Betto, che ha dichiarato che è ormai venuto il momento che anche i sindaci prendano posizione sul tema della cementificazione e consumo del suolo. Anche per questa settimana è tutto, vi ringraziamo di averci ascoltato e vi diamo appuntamento alla prossima con il quadrifoglio. Ci potete riascoltare sul sito internet www.bluradioveneto.it. Avete ascoltato il quadrifoglio, consumo critico, agricoltura, ambiente, energie rinnovabili. Quattro elementi per la nostra vita. In collaborazione con ARCAV, Associazione Giornalisti Agroambientali di Veneto e Trentino Alto Adige.